Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. La città ideale è la città distinta in 7 gironi grandissimi, nominati dagli 7 pianeti, e s'entra dall'uno all'altro per 4 strade e 4 porte, agli 4 angoli del mondo spettanti. Ma sta in modo che se fosse espugnato lo primo girone, bisogna più travaglio al secondo e poi più, talché 7 fiate bisogna espugnarla per vincerla. Buongiorno e benvenuti ad Archimede. Questa è la città del sole, la città ideale secondo Tommaso Campanella. Beh, un po' riduttivo, ovviamente l'opera è un tantino più complessa, ma siamo nel 1602 e in quegli anni la città doveva, tanto per cominciare, essere inespugnabile. La città ideale, insomma, è una specie di ossessione che accompagna tutta la storia umana e cambia continuamente, perché cambiano continuamente le esigenze a cui la città deve rispondere. E oggi che cos'è che rende ideale una città? Quali sono le criticità e le sfide di oggi? E questo è il tema della puntata, ultima puntata di Archimede. Cercheremo di rispondere con l'aiuto di Andrea Boschetti, architetto e urbanista, socio fondatore insieme ad Alberto Francini dello studio Metrogramma, che sta tra l'altro lavorando al nuovo piano territoriale di Milano. Buongiorno Boschetti. Buongiorno. Poi abbiamo Gianni Biondillo, che è architetto anche lui, ma è anche scrittore, autore di diversi libri ed è considerato, anche se proprio su uno dei suoi libri ho detto che non gli piace tanto come definizione, un esperto di periferie. Buongiorno Biondillo. Buongiorno a tutti voi. Iniziamo così. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Insomma, non so se abbia dato retta a Giorgio Gaber, ma pochi anni fa, sarà stato 2006-2007, è stato il momento in cui Mister 50%, possiamo chiamarlo così, ha preso armi e bagagli e si è trasferito in città. Parliamo del momento in cui per la prima volta la popolazione mondiale si è trovata per metà dentro le città, si è inurbata per metà. È un bene o un male, non lo sappiamo, comunque sia è un dato di fatto. E allora abbiamo detto che la città ideale è un concetto in costante mutamento, perché è una specie di risposta a criticità che sono mutevoli. Iniziamo da questo e domando a tutti e due, Biondillo e Boschetti: quali sono le criticità contemporanee che vanno risolte? Non più di 2 capitoli, per così dire, a testa. Boschetti, cominciamo da lei. Beh, dunque, penso che il primo sia un eccessivo consumo di suolo. Il territorio è sempre un materiale preziosissimo e lo sarà sempre di più, e credo che le città si espandono in modo eccessivo oggi, quindi non rispettando questo valore del territorio. Il secondo punto credo sia l'incapacità di rottamare, l'incapacità di procedere verso quel percorso di, chiamiamolo, sedimentazione cumulativa, che però ha fatto tanto nella nostra storia. Pensiamo a Venezia, pensiamo a città storiche importanti di tutto il mondo che bene o male sono il frutto di sedimentazioni progressive nel corso degli anni. Che prevedono a volte anche di buttare giù qualcosa, questo dice lei. La capacità di rottamare e quindi di scegliere la qualità, ciò che è da proteggere, ciò che è da salvaguardare, da ciò che invece si può trasformare, modificare e sostituire, è importantissima, perché argina anche questo fenomeno dell'espansione continua, dilagante sul territorio. Biondillo? Sì, aggiungo le cose che dice Boschetti, sì. Il fatto che esista una sorta di dualità pubblico-privato in questo grande esperimento che sono le città del mondo, quando la bilancia pende troppo sulla voce privato rispetto a quello collettivo, le città smettono di funzionare, cioè quando la mobilità è soprattutto privata e non è collettiva, quindi l'automobile al posto delle reti metropolitane, abbiamo una città che fa fatica a muoversi. Quando lo spazio collettivo perde sempre più significato e diventa uno spazio privato, allora nascono le gate community, cioè queste sorte di quartieri che sono chiusi dentro di sé, con la guardia fuori che non ci fa entrare, si perde il senso, la logica dell'idea della collettività dello spazio. Quindi in questa bilancia privato e pubblico, se il peso non si riequilibria, le città muoiono, insomma. Ecco, poi c'è il tema dell'energia, che anzi direi che adesso andiamo ad affrontare. Cominciamo da un dato che sicuramente ci fa riflettere, sentiamo. New York è la città più efficiente d'America. I dati riportati in un articolo a firma David Owen, comparso su New Yorker, non lasciano dubbi. New York produce soltanto 7 tonnellate di gas serra per residente all'anno, contro una media nazionale USA di quasi 25. Il 54% delle famiglie newyorkesi e il 77% delle famiglie di Manhattan non possiede nemmeno un'automobile. A New York le persone camminano o usano la bicicletta o i mezzi pubblici. D'altra parte non è sorprendente, per incontrare gente che si sposta a piedi bisogna andare in centro, non in campagna. Nell'articolo Owen critica la prospettiva edificio-centrica con cui si affronta il problema della sostenibilità, riscontrabile anche nei sistemi di certificazione più avanzati come il LEED, citando come esempio un edificio residenziale appena certificato Platinum dal Green Building Council, che però dista quasi 10 km dal supermercato più vicino. Allora, superare la visione edificio-centrica, dice Owen. Ma allora a che scala bisogna ragionare, Boschetti, per riprogettare la città? Innanzitutto, prima abbiamo dato, secondo me, due risvolti più tecnici. Credo che il risvolto, il punto di criticità più alto sia la mancanza di un'anima. E questo mi porta anche a dire qualcosa sulla scala del progetto. Qui necessario comunque ambire, che non può che essere quello dell'uomo, è la scala dell'uomo. Non per niente forse in questo discorso delle città di Ale, proprio mai come oggi, il legame col Rinascimento risulta fondamentale, è un suggerimento anche diciamo molto fertile, perché credo che sia il tema cardine dei prossimi anni, cioè noi dobbiamo essere capaci di riprogettare la città intorno all'uomo. E quindi il tema dello spazio collettivo, quasi il negativo, quindi il contrario dell'edificio centrico di cui parlavamo prima, è sicuramente il calco, è sicuramente lo spazio vuoto, che non vuol dire dove si può fare qualsiasi cosa, ma quello spazio dove in qualche dove le persone modo forse si incontrano, si deve incardinare la certezza per il futuro. Ecco, mi pare per esempio che uno dei problemi sia quello della mancanza, io la chiamerei stratificazione sociale. Nelle vecchie case romane, ai tempi dei romani, al piano terra, che era il più ambito perché non esistevano ascensori, vivevano, come dire, i patrizi, quelli che se la passavano molto bene, e via via salendo verso i piani alti, quelli che se la passavano un po' meno bene, però perlomeno si incrociavano sulle scale, no? Come dire, la distanza oggi fra per esempio gli immigrati e coloro che invece sono autoctoni, le varie, chiamiamole così, classi sociali, è proprio una distanza anche fisica. Allora io vi chiedo a lei, Biondillo, in questo caso, la sostenibilità energetica e la sostenibilità sociale, ammesso che abbiamo spiegato che cos'è, sono obiettivi che sono consistenti fra loro o sono invece contrapposti? No, non devono essere contrapposti, sono conseguenti l'uno all'altro. Cioè, quello che noi dobbiamo capire è che non è che al di fuori dei nostri tanto ammirati e spesso imbalsamati centri storici, come dire, ci siano le colonne d'Ercole, no? Hic sunt leones, cioè al di là dei nostri centri storici vivano come una sorta di subumani il resto della popolazione. Questo è un modo completamente sbagliato di comprendere come si debba gestire una città che è territorio ormai. Le nostre città, da Milano a Roma, senza andare in Europa e nel mondo, viaggiano e lavorano a una scala molto più ampia. Maurizio, se mi sì. permette anche di prendere un discorso precedente, mi sembra che il fatto di aver messo New York, accostando questa città straordinaria al tema della sostenibilità, sia una delle cose che sfata l'idea che le città a bassa densità siano quelle più sostenibili. Certo, certo. Quello che vada detto, perché sì, sennò, sì. Sennò beh, direi che il tema della puntata è spiazzante, questo fatto. Per anni si è pensato, si è identificata la sostenibilità con la vita di campagna, invece non è così. Va bene, adesso andiamo a sentire come va il traffico e poi torniamo con un ospite in più. Archimede, tra passato e futuro. Bentornati ad Archimede, Maurizio Melis al microfono, parliamo di città ideale e introduciamo il terzo ospite di oggi, che è Matteo Di Michele. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Di Michele è uno dei circa 100 abitanti di Arcosanti, una città sperimentale che sorge in mezzo al deserto dell'Arizona, voluta e ideata da Paolo Soleri, che è in corso di costruzione da 30 anni grazie anche al lavoro di molti volontari. Arcosanti, insomma, è una città laboratorio. Che cosa si sta sperimentando ad Arcosanti. Ebbene, prima di sentirlo dalla voce di Matteo Di Michele, vi do un indizio. Sole, mare, fighi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quello che voi chiamate piaghe. E nella terza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine. Allora, Di Michele, il traffico, 60% di superficie delle città, da quello che ho capito, occupato o comunque dedicato alle automobili. Voi le avete proprio eliminate, le automobili, da Arcosanti? Sì, il nostro obiettivo è quello di creare un prototipo di città, almeno una piccola città, in cui ci si possa finalmente sbarazzare delle automobili, almeno all'interno della città. Le città, soprattutto in America, sono state distrutte dal mito dell'automobile. Beh, non solo in America, direi, comunque. Anche in Italia non scherziamo. Mm. E purtroppo è un modello per i nuovi paesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo crescente come la Cina, che ormai è diventata una grande potenza, e poi la prossima forse sarà l'India. E quindi per noi è molto importante avere un prototipo in cui si possa sperimentare come c'è un'alternativa. E qual è la chiave? Qual è la chiave per fare a meno dell'automobile? Come si fa? La chiave è la densità, La chiave è la miniaturizzazione. E da qui la scelta di Soleri negli anni 70 di iniziare a costruire un prototipo. Concretamente? Si vive questa densità attraverso una vita molto frugale, in cui si cerca di fare di più con il meno. Abbiamo certo pannelli solari per l'energia e per il riscaldamento dell'acqua, c'è anche un piccolo sistema eolico, ma la maggior parte dei risultati si hanno con l'architettura solare passiva, con i palazzi orientati verso sud per sfruttare l'ombra durante l'estate e il calore del sole durante l'inverno, la ventilazione naturale, la raccolta della pioggia, l'uso delle serre all'interno della città in modo tale da poter avere agricoltura. Avere un chilometro zero, diciamo, effettivo, insomma. Certo, e poi anche l'uso del calore accumulato d'inverno nelle serre per riscaldare i palazzi. E poi anche si tratta anche di organizzarsi durante la giornata in modo diverso, e quindi d'estate ci si alza presto, verso le 5, per sfruttare le ore più fresche. E poi il fatto stesso di avere un habitat molto denso, come si diceva prima parlando di Manhattan, è quasi automatico diventare sostenibile, perché appunto non si deve più guidare, non si devono più sprecare risorse per l'infrastruttura che l'automobile richiede, autostrade, manutenzione, il costo sociale degli incidenti. Mi viene a fare una domanda però a questo punto. Diciamo che uno fa tutto, quasi tutto a piedi, usando pochi mezzi pubblici. E questo comporta una pianificazione. Per esempio, io devo avere per forza il negozio vicino, devo trovare i servizi tutti vicini. Ma questo non comporta una pianificazione un po', come dire, coatta? Beh, certo, bisogna avere un approccio diverso, anziché avere il palazzo super sostenibile con LEED certification, bisogna pensare alla città nel suo insieme come un organismo vivente. Soleri lo chiama un iperorganismo. E certo ci sono tante sfide, ma allo stesso tempo c'è una grande urgenza di sperimentare, di vedere come la gente reagisce in situazioni di alta densità e circondati da una natura che si può proteggere. Allora, Boschetti e Biondillo, che cosa ne pensate? Che ruolo può avere un progetto, per esempio, come Arcosanti nel aiutarci a pensare la città del futuro? Boschetti? Ma con tutto rispetto, io ho sempre seguito con estremo interesse e anche fascino questa esperienza di Arcosanti. Però forse è il caso di fare anche una piccola provocazione in questo momento. Cioè, è chiaro che noi stiamo parlando di città contemporanee con una complessità enorme. che la tabula rasa, quindi la costruzione da zero di un prototipo sperimentale, non può contemplare. Il secondo punto è quello conseguente a questo, che è chiaro che sul tema del trasporto pubblico, sul tema delle migliorie, della trasformazione delle città, è più facile su città o tessuti meno provati. Voglio dire che è chiaro che il tema diventa molto più complicato e duro se lo si propone su città invece dove le abitudini, anche i vizi, anche le distorsioni della vita quotidiana sono più più presenti, insomma, perché poi quello con cui bisogna confrontarsi è proprio la correzione di questi vizi. Biondillo, anche lei è convinto, insomma, che da queste esperienze non si possa ricavare molto, come mi pare dica Boschetti? Io comprendo perfettamente quello che dice Boschetti, perché è uno, come dire, che mette le mani sul territorio e ha una visione in qualche modo prosaica della professione, e ne ha tutto il diritto. In un fondo Arcosanti è un esperimento appunto poetico piuttosto che prosaico, però Arcosanti ci ricorda che le città sono scommesse collettive, cioè che bisogna credere a queste scommesse. In un certo senso dalla fine delle ideologie abbiamo anche terminato un orizzonte utopico di tutto quello che facciamo. Sembra che tutto debba essere necessariamente frammentato o in qualche modo carico soltanto di interessi personali. E invece quello che manca in tutto quello che abbiamo detto fino adesso è la scelta politica di tutte le azioni che si fanno, cioè ma in maniera concreta, intendo dire. Il Portogallo ricava il 30% della sua energia elettrica da fonti rinnovabili. Certo. E l'obiettivo per il 2010 è arrivare al 39%. Mm-hmm. Sono cifre che fanno impressione, perché noi in Italia nel 2006 ricavavamo qualcosa come il 15% di energia elettrica. Sì. E quasi tutto, la maggior parte, era tutto idroelettrico, grande idroelettrico praticamente, sì. E non dimentichiamoci che politica viene da polis, da città. Certo. Intanto il tentativo di Arcosanti, di Michele, mi corregga se sbaglio, non è tanto quello di creare un prototipo da replicare tale e quale, ma proprio di mettere alla prova un po' di meccanismi, o sbaglio? Esatto, e di dare anche la possibilità di sperimentare come la densità aumenti il tenore di vita, far vedere come la vita migliora quando ci si avvicina null'altro invece che isolarsi come eremiti. D'accordo, dunque questo tema della densità ci porta direttamente al passo successivo. Ecco perché noi dobbiamo sicuramente evitare di occupare altra superficie, che è l'unico modo per preservare quel poco di natura che abbiamo. E addirittura, Biondillo, lo dico a lei, lei ha lanciato un progetto che addirittura non solo non vuole occupare altra superficie, ma non vuole nemmeno creare ulteriore volume. Parliamo di cubatura zero. Che cosa vuol dire e in che modo si può riprogettare la città a cubatura zero? Ecco, rifacendoci anche alle cose che abbiamo appena detto, in Italia non esiste la natura è stata tutta completamente modificata nel corso dei secoli dall'uomo, disegnata, modificata, manipolata. Le colline toscane non sono natura, sono, certo, sono la natura che entra in contatto con la cultura. Sono antropica. Già una mediazione tra umano e naturale. Certo. Ecco, in questo scambio, in qualche modo, per secoli, per millenni, abbiamo trovato l'equilibrio fra le esigenze di chi abitava e il rispetto del ciclo delle stagioni. Tutto questo, con la logica appunto dello sprawl, dello sviluppo a tutti i costi, lo stiamo distruggendo, l'abbiamo finito, il nostro territorio è terminato, quindi non possiamo sperare ancora che ci sia la possibilità di espandere, di allargarsi. Quindi in questa sorta di partita doppia, come diceva prima appunto Boschetti, dobbiamo sapere cosa rottamare, sapere che ogni volta che noi costruiamo qualcosa dobbiamo recuperare territorio, assolutamente doveroso. Oggi 100 metri quadrati al minuto di pianura padana vengono cementificati. Mentre noi stiamo parlando da 20 minuti, non so quanti migliaia di metri quadrati sono, 2000, già stati bruciati. Il territorio più fertile del mondo viene continuamente bruciato, è una follia, è uno spreco economico che noi non possiamo più permetterci. Ecco, e concretamente che cosa vuol dire cubatura zero? Perché insomma, se io devo ricostruire un quartiere e ci abita dentro qualcuno, cosa faccio? Lo prendo, lo tiro fuori, lo sposto, lo metto in congelatore nel frattempo? Pensiamo a Los Angeles, che è una distesa per decine di chilometri di casupole. Come si fa a tornare indietro da una situazione del genere? Visto che poi la periferia è sempre il centro della città di domani, dopo 50 anni è sempre così. Come si fa a tornare indietro? La città a cui facciamo riferimento noi, il centro, non c'è neanche il concetto stesso di centro. È incomprensibile da quella parte, insomma, del mondo. centro è una cosa molto europea, l'idea di centro storico, insomma. Non si può comunque tornare indietro, evidentemente bisogna cercare di trovare una strada, appunto una visione utopica del futuro, dell'architettura che cambi la mentalità, l'idea appunto del mito americano della casetta, che è quella che ha devastato il territorio, non certo il grattacielo. Ecco, forse quantomeno bisogna stabilire che da qui in avanti si va in altezza e un po' meno in larghezza. Su questo mi pare che siamo tutti definitivamente d'accordo. Grazie Biondillo, grazie Boschetti. Grazie a tutti voi. Grazie anche di Michele. Arrivederci a tutti. Siamo addirittura d'arrivo, ma prima di chiudere, un problema che invece affligge le città proprio in quanto luoghi ad alta densità di popolazione. Il problema dell'isola di calore. La città in pratica si comporta, in fisica si chiama corpo nero, come un oggetto che assorbe quasi al 100% la radiazione che riceve dal sole. Questo porta a un surriscaldamento che soprattutto di notte, pensate, a Milano è stato misurato, raggiunge i 6 gradi, ma ci sono città in cui l'effetto è ancora più forte. Allora sentite che cosa si sta pensando per risolvere questo problema. Per ridurre l'effetto isola di calore, che in alcune città è pesantissimo, il fisico Arthur Rosenfeld ha proposto di schiarire le città. Verniciando con colori chiari tutte le superfici orizzontali delle città situate nelle zone del globo che presentano estati calde, per esempio verniciando di bianco i tetti e le strade, gran parte della luce del sole verrebbe riflessa e non si trasformerebbe in calore. Secondo lo stesso Rosenfeld, su scala globale, ciò equivarrebbe a eliminare 24 miliardi di tonnellate di CO2, pari a quella emessa da 300 milioni di veicoli in 20 anni. Dixon Despomier, invece, che insegna e lavora alla Columbia University, ha proposto di ricoprire i tetti delle città con giardini. Le piante hanno la capacità di condizionare l'ambiente, come sa chiunque abbia messo piede in un bosco, grazie a un processo chiamato evotraspirazione, una sorta di evaporazione controllata. Il meccanismo è lo stesso che ci fa rabbrividire al mare quando usciamo dall'acqua in una giornata di vento, nonostante la temperatura dell'aria sia alta. Per questa ragione le piante possono essere preziose alleate se arruolate nel sistema di difesa di una città dalla calura estiva. Con questo è davvero tutto, qui finisce Archimede. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui, ringrazio Luca Rinaldi in redazione. Finisce Archimede ma comincia l'anno lavorativo, per cui un buon inizio a tutti.